Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Ci sono luoghi in cui far arrivare materiali e prodotti è particolarmente difficile, ma è anche particolarmente importante. Pensiamo alle zone travolte da terremoti o alluvioni, o a quelle colpite dalle guerre, dove la logistica e i trasporti possono presentarsi come una vera e propria sfida. Allestire un sistema di potabilizzazione dell'acqua, costruire un ospedale da campo o organizzare un magazzino per i medicinali, in questi contesti significa infatti impiegare anche sistemi inconsueti o inediti. L'organizzazione Medici Senza Frontiere, ad esempio, ha trasformato un container in un'unità mobile di chirurgia con una sala operatoria per curare i pazienti iracheni di Mosul. In Africa, invece, i camion, oltre che per il trasporto merci, sono stati usati come cliniche mobili per fare analisi sull'HIV. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo che, come abbiamo ricordato spesso, entra in pratica in ogni aspetto della nostra vita, perché tutto ciò che ci circonda in qualche modo ha bisogno di essere trasportato per qualche centinaio di metri o per migliaia di chilometri. Ecco perché anche le associazioni umanitarie hanno degli esperti di logistica in grado di gestire tutte le complesse fasi legate alle emergenze che si trovano ad affrontare, emergenze umanitarie come guerre o calamità, dove si trovano a gestire delle sfide logistiche per raggiungere e curare pazienti con l'utilizzo dei mezzi di trasporto più disparati, dagli aerei per trasportare aiuti a interi ospedali gonfiabili o, come ascolteremo tra poco dalla voce dei nostri ospiti, anche da interi ospedali montati però su dei camion. E allora, per raccontare questo mondo, vi presento i nostri ospiti, che sono Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E buon pomeriggio anche ad Angelo Rusconi, che all'interno di Medici Senza Frontiere si occupa appunto di alcuni aspetti legati alla logistica. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Presidente De Filippi, cominciamo un po' con il raccontare che cos'è Medici Senza Frontiere, una sigla che spesso ascoltiamo nelle cronache appunto delle emergenze umanitarie, ma che forse poi non tutti conoscono appieno. Medici Senza Frontiere è un'organizzazione nata nel 1971 in Francia da dei medici che volevano in qualche modo portare l'aiuto umanitario, ma anche denunciare quello che succedeva. Ed è per questo che anche i giornalisti facevano parte del primo consiglio direttivo di quell'organizzazione. L'organizzazione si è espansa nei primi anni 80 in maniera molto rapida in Europa, e in questo momento 23 paesi più sviluppati al mondo hanno delle sedi di Medici Senza Frontiere, e lavoriamo in 70 paesi diversi con un budget complessivo, per quanto riguarda le operazioni, quindi le missioni sul posto, di circa 1 miliardo. Certo, ecco, diverse sedi, molti centri operativi, leggo qui nella vostra scheda 5 centri operativi e una logistica sicuramente molto complessa. Rusconi, una logistica senza frontiere, un po' come i medici, che ha una peculiarità, ha dei tempi di reazione che sono molto diversi da quelli della logistica tradizionale. Che la logistica nei Medici Senza Frontiere nasce per supportare l'azione medica, perciò negli angoli più disparati del mondo, per poter medici e infermieri, per poter esercitare l'azione medica, assistere le persone in difficoltà, hanno bisogno del supporto di un aspetto logistico. Molto spesso quello di cui necessitiamo non si riesce a recuperare in loco, e questa è la ragione per il quale c'è tutta una catena di supporto logistico che arriva da altri paesi. Perciò all'ultimo vaccino che arriva sul terreno in mezzo al deserto c'è tutto un sistema di trasporto, di catena del freddo, che arriva sia per materiale medico-sanitario, logistico per la potabilizzazione dell'acqua o costruzione di strutture sanitarie. Presidente De Filippi, mi sembra di capire da quello che ci dice Rusconi che nella vostra attività la logistica è basilare, almeno quanto l'attività medica sostanzialmente. Sicuramente la parte più importante, perché ci siamo resi conto nei primi anni 80 che se non avessimo moltiplicato immediatamente la capacità logistica saremmo rimasti una piccola organizzazione. Medici Senza Frontiere oggi è la più grande organizzazione al mondo per quanto riguarda l'assistenza medica umanitaria, e questo è dovuto grosso modo alla logistica. La logistica che prevede dei grandi magazzini in alcune città europee che possono in qualche modo in tempi rapidi mettere a disposizione del materiale che una volta sui cargo può essere trasportato nelle prime 24 ore in un'area di crisi in tutto il mondo. E se non ci fosse la logistica, ovviamente l'azione medica non sarebbe assolutamente certo. possibile. Rusconi, lei in questo momento è in Germania, state lavorando alla realizzazione di un altro ospedale mobile montato su camion, ricordiamo il primo in questo momento è a Mosul, di che cosa si tratta? Della prima esperienza. La prima sera è nato l'esigenza, proprio da un'esigenza medica, di dover dare una prima assistenza chirurgica alle vittime di un conflitto. In questo caso il primo, che si chiama in codice MAST 1, è a Mosul, circa 8 km dalla linea del fronte. L'idea era un po' di riuscire a spostare un'unità operativa, un piccolo ospedale, su camion nella zona più vicina alla linea del fronte. Ecco, da quella prima esperienza che è stata realizzata a fine dell'anno scorso, ora stiamo facendo l'evoluzione. La prima esperienza erano 4 camion, questa seconda evoluzione sono 16 camion, 2 sale operatorie, pressoché quasi autonome, tranne i materiali di consumo, che alla fine, quando verrà realizzato, sarà in grado, dopo che viene spostato in loco, in un tempo ragionevole tra le 6 e le 10 ore, di essere operativo e i medici e gli infermieri potranno operare i feriti che arrivano dalla linea certo. del fronte. Questo è il concetto un po'. De Filippi, quali sono i fronti, come dire, più caldi su cui voi operate in questi mesi, in queste settimane? Beh, sicuramente uno è stato citato da Angelo, e Mosul. Io sono rientrato da qualche mese proprio da Mosul, dove abbiamo messo in piedi svariate strutture per far fronte alla crisi e al conflitto fra la coalizione irachena e occidentale contro il califfato, guerra che non si è ancora conclusa perché rimangono alcune sacche ancora all'interno di Mosul, e comunque ci saranno una normalizzazione che durerà un po' di tempo. C'è una crisi molto grave in Yemen in questo momento, in particolare in un conflitto che sta andando avanti ormai da anni, che in questo momento ha incrociato una nuova crisi, che è un'epidemia di colera, che ha messo veramente in gravissima difficoltà le persone, non solo per l'alto numero dei morti, superiore a 1500, ma anche e soprattutto perché in questo momento non siamo in grado di operare in una situazione normale, vista la situazione di grave insicurezza. Certo. Un'altra situazione che vorrei segnalare, che è assolutamente poco conosciuta, è quella dell'Uganda. L'Uganda ha visto arrivare alla fine del 2016 circa 1 milione di persone dal Sud Sudan, profughi, quindi persone che si sono rifugiate in quel paese. Il presidente Museveni li ha accolti, ma in questo momento sicuramente sono in 4 campi particolarmente affollati, con una grossa crisi, campi che non sono sicuramente in questo momento finanziati per il più del 20-25%, quindi situazione molto, molto grave anche lì, e ce ne sono tantissime altre. Immagino, certo, una situazione difficile, vari fronti aperti in varie parti del mondo. Rusconi, invece parliamo di alcune azioni che avete svolto in passato, pensiamo al tifone ad Haiti lo scorso autunno, il terremoto nel Nepal del 2015, tutti gli scenari su cui voi avete operato. Ecco, da un punto di vista logistico, in questi casi quali sono le difficoltà principali da affrontare sul territorio? Un'emergenza nasce un po' così, dal centro operativo, dall'emergency team. Il team in emergenza cerca di identificare l'ampiezza e le conseguenze di un'emergenza. In questo caso possiamo parlare di una calamità naturale. Fa dei primi riscontri sul terreno, se abbiamo già delle nostre equip presenti sul terreno, e cerca di capire l'entità. Nel frattempo il responsabile logistico all'interno del gruppo di emergenza cerca di organizzare i primi materiali da poter inviare col primo aereo cargo. Nella prima fase ci appoggiamo a dei veicoli esterni quando li troviamo sul posto, perché ad esempio nelle Filippine non avevamo una missione nostra, abbiamo dovuto arrivare proprio da niente, lo stesso era in Nepal, perciò si affittano delle macchine. In una fase successiva si vede di acquistare delle macchine, dei camion, sicuramente barche su una fase di emergenza vengono affittate, elicotteri indubbiamente, tutto questo materiale molto costoso e che prevede una manutenzione molto costosa. Certo. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Noi salutiamo e ringraziamo i nostri ospiti, il presidente italiano di Medici Senza Frontiere, Loris De Filippi, Angelo Rusconi, che si occupa per la stessa associazione di logistica. L'appuntamento con Container ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.